Nel 2005 si tolse la soddisfazione di partecipare al Festival di Sanremo e di fare una jam session sul palco dell'Ariston coi vecchi amici, i grandi jazzisti italiani, e di vincere il premio della critica. I suoi primi dischi però risalivano a 50 anni prima, dopo la gavetta in Salento e al Nord. I sing more. Alla fine degli anni 50 i primi successi anche televisivi, da Canzonissima a Carosello. Nicola, avrai perso la voglia di fare scommesse? No, scommetto che in tasca il digestivo Antonetto. I remember quel giorno, lo ricordo perché... Si cimentò nel cinema con La grande guerra di Monicelli, ma non smise mai di cantare, incidere, fare concerti negli ultimi anni nella sua Puglia. Avrebbe voluto un'ultima grande tournée, i medici glielo sconsigliarono. Dopotutto anche a Sanremo aveva desiderato andarci a tutti i costi. Noi saremmo venuti ugualmente, anche senza scarpe, con le calze di lana, perché fa freddo, inverno. Salutando infine tutti, come sempre. Saluto Massorda. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore.